24, i gialli della storia. Parigi, 13 febbraio del 1917. Le strade sono ancora deserte quando il commissario Albert Briolet, insieme ad alcuni funzionari di polizia, si presenta alle 7 del mattino all'albergo dove abita Margareta Gertrude d'Azel e chiede di essere accompagnato da lei per arrestarla. Così si conclude la carriera di Matahari, la più famosa spia di tutti i tempi. Noi oggi a Mix24 vogliamo raccontare la sua storia, i suoi intrighi, con la complicità dello storico Léon Schirman, che ne ha studiato le varie fasi. Sull'affare Matahari esiste una letteratura vastissima, che però è fatta per lo più di invenzioni e di fantasie. Questo è dovuto soprattutto al fatto che il processo si è svolto a porte chiuse e che la sola persona autorizzata ad assistervi fu un militare pubblicista che 4 anni dopo pubblicò nel quadro della propaganda antitedesca del momento una cronaca del tutto falsa del processo. Dans le cadre de la propagande anti-allemande qui régnait à l'époque. Matahari fu dipinto come l'incarnazione della odiosità tedesca. I biografi successivi hanno poi aggiunto a loro volta altre fantasie e si sono così create delle vere e proprie leggende. Per sapere cosa sia veramente successo, ho dovuto ricominciare da zero, consultando direttamente tutti gli archivi accessibili. Gli archivi più importanti sono questi di Vincent, dove si trovano gli atti del procedimento e che sono rimasti segreti per 40 anni. Hanno incominciato ad essere parzialmente consultabili negli anni 60 e solo ora sono diventati di dominio pubblico. Ma chi era Matahari? Matahari, o meglio Marguerite Gertrude Zelle, era una ragazza olandese che all'inizio del secolo decise di essere indipendente ed ebbe il coraggio di affrontare la vita con le sue sole forze. Divenne famosa e fu ammirata in tutto il mondo, passò dalla polvere agli altari e precipitò di nuovo nella polvere. Una prostituta d'alto bordo e un'avventuriera per alcuni, una vittima per altri. Una delle poche donne, comunque, a cui sia stato dedicato un monumento e l'ala di un museo. Nata il 7 agosto 1876 a Leeuwarden, la più importante città della regione olandese della Frisia, Marguerite Gertrude Zelle è la figlia prediletta di un importante commerciante locale. Dopo il fallimento dell'attività del padre, Marguerite trascorre l'infanzia presso vari parenti e in collegio, prima di sposarsi, ancora giovanissima, con Rudolf MacLeod, un ufficiale dell'esercito di parecchi anni più vecchio di lei. Ma ben presto il matrimonio diventa un inferno e ritornati in Olanda i due si separano. Per vivere, Marguerite si adatta anche a prostituirsi e a fare la ragazza in vetrina ad Amsterdam. Poi si trasferisce a Parigi in cerca di fortuna. Armata solo della sua bellezza esotica e di una gran voglia di riuscire ad ogni costo, Marguerite prima posa come modella, poi fa la cavallerizza in un circo equestre e infine si improvvisa danzatrice. Sfruttando la moda per l'Oriente che infiamma i parigini, Marguerite, che ha scelto come nome d'arte Matahari, la luce del giorno, si inventa un passato di danzatrice sacra indù. E la sera del 13 marzo 1905 si esibisce in costume da bayadera al Museo d'Arte Orientale Émile Guimet. Davanti a quello spogliarello ammantato di una vaga patina culturale, il pubblico cade in delirio. Matahari passa da un trionfo all'altro e vive da protagonista la vita montana di quegli anni. All'apice della sua carriera artistica arriva ad esibirsi alla Scala di Milano e in alcuni dei più importanti teatri d'Europa. Poi, col tempo, il successo come danzatrice incomincia a diminuire e come Lola Montez, Cléod Émeraud e la bella Otero, anche Matahari vede crescere la sua fama di cortigiana fatale. Avventuriere di classe e grandi seduttrici sono tutte artiste del palcoscenico che per la loro notorietà dettano la moda del momento e che per la loro bellezza e abilità diventano non solo le amanti di uomini famosi e potenti, ma addirittura le favorite di monarchi e imperatori. Ma la Belle Époque, che l'ha vista protagonista indiscussa, si chiude rapidamente con l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Nel 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale. Per 4 anni milioni di uomini si affrontano e muoiono in un conflitto senza precedenti. Da una parte c'è un'alleanza formata dall'impero austro-ungarico con l'impero tedesco, la Bulgaria e la Turchia, e dall'altra la triplice intesa di Francia, Inghilterra e Russia, a cui si uniranno nel corso della guerra l'Italia, la Romania e gli Stati Uniti d'America. La Spagna, la Svizzera e l'Olanda sperano di restare fuori dal conflitto e dichiarano la loro neutralità. Il Belgio, la cui neutralità era garantita da un trattato del 1839, viene invece invaso e occupato dai tedeschi per aggirare le difese nemiche e per poter più rapidamente avanzare in profondità nel territorio francese. La controffensiva sulla Marna, guidata dal generale Joffre, arresta l'avanzata tedesca a meno di 100 km da Parigi. L'esercito degli imperi centrali tenta allora l'avvolgimento dell'ala francese, ma non riesce a sfondare, e la guerra di movimento si trasforma nella più sanguinosa e logorante guerra di trincea. In questi anni fatti di violenza e di confusione, molti avventurieri si trovano ad essere impiegati come spie e tra questi Matari. E questo è il motivo del suo arresto, e l'accusa è quella di essere una spia tedesca e di aver sempre fatto il doppio gioco. Fu il capitano Ladoux, uno dei capi del controspionaggio francese, a chiedere l'arresto di Matari tramite il generale governatore di Parigi, che trasmise l'ordine al giudice militare competente. Matari fu così arrestata nell'albergo dove abitava la mattina del 13 febbraio 1917. Il commissario di polizia Priolet, che lavorava spesso con il giudice istruttore Bouchardon, venne ad arrestarla al suo hotel con 4 o 5 gendarmi. Incaricato dell'istruttoria è il capitano Pierre Bouchardon. 46 anni, folti baffi, fronte alta, faccia tonda e sguardo vivace, Bouchardon ha svolto per anni l'attività di pubblico ministero a Rouen e a Parigi. Si dice che sia furbo e provi un piacere sadico ad assistere alle esecuzioni capitali. L'istruttoria di Bouchardon dura complessivamente 4 mesi e per logorare la resistenza di Matari, il giudice istruttore lascia passare anche 3 settimane tra un interrogatorio e l'altro. Il 13 febbraio, Bouchardon chiede a Matari di ammettere di essere una spia dei tedeschi, ma lei nega con decisione e afferma al contrario di lavorare per i francesi. Senza difficoltà, ammette di aver conosciuto e di essersi accompagnata a molti ufficiali alleati fin dal suo primo soggiorno a Parigi, e questo è confermato dai rapporti di polizia. Tra di loro c'è un giovane ufficiale russo, Vadim Demaslov, di cui si innamora perdutamente, nonostante sia di 19 anni più giovane di lei. Quando Maslov deve lasciare Parigi e ritornare al suo reparto, Matari cerca di raggiungere la stazione termale di Vittel per delle cure. Ma dal momento che la località è vicino al fronte di guerra, le autorità le negano l'autorizzazione. Matari non demorde e tenta in ogni modo di ottenere il visto. Incontra un vecchio amico distaccato agli alti comandi, e lui le combina un appuntamento proprio con il capo del controspionaggio francese, il capitano Georges Ladoux. Matari si presentò dunque ai primi di agosto 1916 all'ufficio di Ladoux, al 282 del Boulevard Saint-Germain. E come risulta dalle stesse memorie del capitano, dopo alcuni preamboli, Ladoux le disse di conoscere le ragioni della sua visita. Le disse di sapere anche che i servizi inglesi nutrivano dei sospetti su di lei, ma nonostante ciò le propose ugualmente di lavorare per la Francia. Ottenuto il visto per Vittel, Matari raggiunge finalmente la zona di guerra e qui ritrova il suo giovane amante, che è stato ferito ad un occhio dai tedeschi. Ritornata a Parigi, Matari incontra nuovamente Ladoux e finalmente accetta per 1 milione di franchi l'incarico che lui le aveva proposto prima della sua partenza per Vittel. La prigione di Saint-Lazare, in cui era detenuta Matari, era una prigione per sole donne, tenuta da delle monache. Le condizioni di vita erano terribili. Matari era rinchiusa in una cella senza finestre al buio, nella sporcizia, in mezzo ai vermi e ai topi. Avec de la vermine et des rats. La nourriture était extrêmement insuffisante et Matahari n'avait pas beaucoup d'argent. Il cibo era molto scarso e Matahari non poteva disporre di soldi per comprarne all'esterno. Le condizioni in cui era costretta erano particolarmente dure per lei, che era abituata al lusso e alla pulizia. Era tenuta in isolamento e certamente deve essere dimagrita moltissimo. L'istruttoria messa in piedi per accusare Matahari segna il passo. La donna replica tutte le accuse con puntuali giustificazioni che la scagionano completamente. Ma siamo a un punto di svolta. Il primo maggio, due mesi e mezzo dopo che Matahari è stata arrestata, il giudice Bouchardon non è ancora riuscito a trovare una prova contro di lei. L'istruttoria non ha fatto progressi, segna il passo. E allora Bouchardon deve esibire la sola, vera prova in suo possesso. Una serie di messaggi che si erano scambiati, l'ha detto militare tedesco a Madrid, von Kalle, e il centro dei servizi segreti a Berlino, e che i francesi hanno intercettato e decifrato tramite la stazione d'ascolto della Torre Eiffel. Capté au passage par la Tour Eiffel e déchiffré. Quello che oggi è il simbolo stesso di Parigi e che all'inizio del secolo era ancora considerato un opprobrio dai parigini, durante la Prima Guerra Mondiale fu invece di grande utilità per gli alleati. I sistemi di trasmissione senza fili erano ancora imperfetti e utilizzavano onde lunghe, per cui disporre di un così elevato punto di ascolto rappresentava un notevole vantaggio. Sulla cima della torre, dunque, i servizi segreti francesi installarono una centrale di intercettazione e trasmissione, a cui faceva capo tutto un sistema di altri centri meno potenti. In questo modo, i messaggi che venivano scambiati tra Madrid e Berlino potevano essere facilmente captati e trasferiti anche su nastro o cilindri di cera per essere decifrati. Il primo dispaccio tedesco riguardante Matahari è qualificato come urgente da Kalle ed è datato 13 dicembre 1916. In esso l'addetto militare tedesco dice di aver incontrato l'agente H21 del centro di Colonia, che gli ha trasmesso alcune informazioni sulla situazione politica francese e su una probabile offensiva militare in primavera. Termina chiedendo disposizioni urgenti. In un messaggio successivo dice che l'agente H21 gli ha parlato di uno sbarco alleato alla foce dello Schelda. In quello del 25 dicembre, Berlino ordinava di dare ad H21 3.000 franchi, di chiedere notizie più importanti. Dava poi istruzioni ad H21 per andare in Svizzera ad un certo indirizzo. Il 26 dicembre, Kalle risponde di aver dato ad H21 3.500 pesetas. Il 28 dicembre c'è un altro messaggio. H21 arriverà domani a Parigi. Chiederà di avere tramite il console tedesco Kremer di Amsterdam e la sua cameriera Anna Lintjes altri 5.000 franchi al Comptoir National des Comptes di Parigi. E infine il 29 dicembre Kalle informa che H21 ha lasciato Madrid per Parigi. Il maggiore Kalle, ed è provato da tutti gli archivi tedeschi e pure da quello della procedura militare di Vincennes, dichiara due volte che Matahari è un agente del centro di Colonia, quando c'è la prova che non è mai esistito un centro di Colonia. Di conseguenza, possiamo dire che il telegramma del maggiore Kalle è un finto messaggio destinato ai francesi che si sapeva lo avrebbero intercettato. In questo modo, i tedeschi volevano fare arrestare e condannare Matahari per punirla per il suo tradimento. E infatti... Il maggiore Kalle ha messo nei suoi telegrammi ogni tipo di informazione inutile e superflua, al solo scopo di identificare senza errore Matahari. Si indicava infatti il nome della sua cameriera, il suo indirizzo in Olanda, la banca di Parigi dove riceveva gli assegni, eccetera, eccetera. Questo era inutile e contrario a tutte le regole di sicurezza. C'était absolument inutile et contraire Il 21 maggio Matahari confessa di essere l'agente H21. L'interrogatorio suivant a lieu le 21 mai. Matahari fu dunque costretto ad ammettere che lei era l'agente H21, ma in fondo ammise solo quello che era già più o meno conosciuto dai servizi francesi. Quando Ladoux le propose a sua volta di fare la spia per i francesi, Matahari si deve certo essere divertita parecchio e deve aver pensato di guadagnare quanto più poteva per andare a vivere con il giovane dispendioso amante russo. Accettò, ma tacque di essere già stata ingaggiata dai tedeschi. In questo modo evitò il rischio di essere subito arrestata come spia e poi forse sperava, rivelandolo in un secondo tempo, di valorizzare la propria abilità di infiltrazione e di valere veramente 1 milione di franchi. Tutti erano d'accordo che Matahari fosse stata al servizio dei tedeschi. Ma quello che era da stabilire era se Matahari, accettando di lavorare per conto della Francia, lo avesse fatto con sincerità. Era passata realmente al servizio dei francesi? O aveva solo fatto finta, rimanendo invece sempre al servizio della Germania? Nel secondo caso si doveva condannare Matahari a morte. Nel primo, no. Il processo durò 2 giorni. E fu a porte chiuse, essendo un processo per spionaggio. Per questo è impossibile conoscere veramente quello che fu detto. Si sa che c'erano 8 domande riguardo alla colpevolezza di Matahari e che per tutte fu dichiarata colpevole all'unanimità o all'unanimità meno un voto. Di conseguenza fu condannata a morte all'unanimità. Matahari viene condannata alla fucilazione per spionaggio, ma era davvero colpevole? O è stata usata la sua notorietà, la sua condanna per allentare le tensioni interne in un momento difficile della guerra? È possibile considerarla un capro espiatorio di un gioco più grande di lei? Erano circa le 6 del mattino del 15 ottobre 1917, quando Matahari, vestita con un elegante abito grigio perla con un corsetto di pizzo, un tricorno e un cappotto blu, venne condotta al castello di Vincennes per essere fucilata. Un giornalista scrisse che Matahari fosse sotto l'effetto della morfina, ma fuori da ricostruzioni di fantasia e secondo le memorie di alcuni partecipanti, sembra che si sia comportata con coraggio e che abbia rifiutato di farsi bendare gli occhi. Sentì il comando attenti come se venisse da molto lontano. Puntate fu il secondo ordine e i nostri fucili si misero in linea di fuoco. Ho letto che si denudò davanti al plotone, ma non successe niente del genere. Cadde sulle ginocchia lentamente, poi si accasciò di schianto. A causa degli eventi politici interni, i russi si stavano sganciando e i tedeschi aumentavano la pressione sul fronte occidentale. La guerra durava da 3 anni e i morti erano ormai milioni. Nell'esercito i casi di diserzione erano sempre più numerosi, mentre sul fronte interno i disfattisti erano sempre più frequenti. Era indispensabile dare in pasto all'opinione pubblica delle spie e dei traditori che sembrassero i soli responsabili di quella pessima situazione. E Matahari era un colpevole ideale. Per i servizi francesi Matahari era diventata inutilizzabile come agente, ma al contrario era molto più utile da arrestato come prova dell'efficienza dei servizi di controspionaggio nell'arrestare le spie nemiche. E dal momento che era celebre, era facile dire che era la più grande spia della guerra. Ma ci sono 3 nuovi importanti elementi che sono stati scoperti e che potrebbero permettere una revisione del processo. Primo, Il giudice istruttore non comunicò al tribunale che il 31 marzo i tedeschi non sapevano ancora dell'arresto di Matari, avvenuto il 13 febbraio, il che dimostra che lei aveva troncato ogni rapporto con loro e che non era più una spia tedesca. Secondo, Matari informò il controspionaggio francese del suo incontro con il maggiore Kalle con una lettera del 9 dicembre, mentre il diplomatico tedesco inviò il suo primo telegramma a Berlino soltanto 4 giorni dopo. Ciò dimostra di nuovo, in modo inequivocabile, che Matari lavorava per i francesi e non per i tedeschi. Ma la lettera che provava la sua innocenza fu volutamente tenuta nascosta dal pubblico ministero francese. Terzo, al processo, il controspionaggio francese affermò che per coprire il vero capo, Matari aveva mentito indicando nel barone von Rolland il responsabile dello spionaggio tedesco a Barcellona. Ma un documento ufficiale, trovato recentemente negli archivi, dimostra che i francesi sapevano da tempo che il barone von Rolland era davvero il capo dello spionaggio tedesco. Questo dimostra chiaramente che il controspionaggio francese volle costruire con delle prove false la colpevolezza di Matari. Bisogna riconoscere che quelli che fecero fucilare Matari in fondo le fecero un gran favore, perché in questo modo, con la sua fucilazione, è diventata immortale. Hanno collaborato i gialli della storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.